Questo giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Si chiudono col botto le consultazioni di Renzi, tra poco in diretta streaming il confronto con Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle, ve lo faremo ascoltare in diretta. Berlusconi dice intanto siamo all'opposizione ma disposti a collaborare, il Presidente del Consiglio incaricato conta di formare il governo entro venerdì. Le vittime degli scontri in Ucraina tra manifestanti e polizia sono 26, almeno 26. La Russia parla di colpo di Stato, l'Europa riunisce domani i ministri degli esteri. La Ashton annuncia stiamo valutando sanzioni. C'è un'inchiesta su alcuni appalti della Presidenza del Consiglio. Arrestati ai domiciliari Luigi Bisignani e il generale dei Carabinieri Ragusa. Frode fiscale, corruzione, turbativa d'asta, le accuse. Presentata l'operazione Peugeot Citroën, aumento di capitale da 3 miliardi di euro, entrerà un gruppo cinese e lo Stato francese. Un mese fa l'alluvione nel Modenese, a Bonporto e Bastiglia, ci sono ancora famiglie ospitate negli alberghi, negozi chiusi e ancora non si parla di risarcimenti ai privati. Sanremo, la prima serata fa ascolti più bassi rispetto all'anno scorso, ma i numeri sono comunque enormi, share a circa il 45%. I precari che hanno minacciato di buttarsi a inizio serata, denunciati per violenza privata. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti insieme come sempre fino quasi alle 14. Il numero per commentare le notizie è 349-238-6666 via SMS oppure c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dalla politica per poi andare rapidamente naturalmente alla situazione in Ucraina. Vincenzo Miglietta, il punto sulle consultazioni, buongiorno. Sì, buongiorno. Consultazioni, Simone, che in questo momento proseguono con la delegazione del PD, un incontro scontato, quello in corso, anche se tra i gruppi parlamentari non mancano le critiche all'accelerazione impressa dal segretario al momento politico. Faccia a faccia in tarda mattinata intanto tra Renzi e Berlusconi, il cavaliere al termine ha ribadito la posizione già espressa al capo dello Stato, Forza Italia è e resterà l'opposizione, ma tutto ciò non influirà sull'intesa raggiunta con il premier incaricato sulle riforme. Ma sentiamo Berlusconi. Noi abbiamo dato al Presidente incaricato la nostra assoluta disponibilità a lavorare insieme e a approvare in Parlamento queste riforme. Siamo invece su quella che è la gestione normale, opposizione, un'opposizione che deciderà di volta in volta, come abbiamo già dimostrato nel passato quando fummo all'opposizione sui contenuti dei singoli provvedimenti. Queste dunque le condizioni di Berlusconi, chi in queste ore ha messo dei paletti ben precisi a Renzi. Intanto Angelino Alfano, la coalizione di governo, dice Alfano, deve essere la stessa dell'esecutivo Letta e poi no alla patrimoniale, no ad un guardasigilli giustizialista. Tra circa mezz'ora, Simone, lo hai anticipato, quindi attesissimo incontro tra il premier incaricato e la delegazione 5 Stelle a guidare quest'ultima, Beppe Grillo, ci sarà lo streaming del faccia a faccia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, come diciamo già nei titoli incontro che vi faremo ascoltare in diretta. Prosegue intanto il Toto Ministri, sentiamo gli aggiornamenti di oggi. Per Matteo Renzi è sempre quello del Ministero dell'Economia lo scoglio più difficile da superare, un incarico chiave per il quale a circolare al momento sono soprattutto nomi di tecnici, in particolare quelli dell'ex rettore della Bocconi, Tabellini, e dell'attuale presidente dell'Istat, Padoan. Il premier incaricato non avrebbe però del tutto rinunciato all'idea di mettere un politico a via 20 settembre. Il nome in questo caso potrebbe essere quello del renziano Del Rio, ex titolare degli affari regionali. Fra i fedelissimi del segretario democratico vengono dati quasi per certi incarichi di governo anche per Maria Elena Boschi, Federica Mogherini e Lorenzo Guerini. Nel toto nomine alla giustizia intanto resta favorita Livia Pomodoro, allo sviluppo economico l'ex numero uno di Telecom Bernabè, mentre l'amministratore delegato di Ferrovie Moretti potrebbe andare al Ministero del Lavoro. Le caselle da riempire sono diverse, ma Renzi punta comunque a completare la squadra di governo nelle prossime ore per sciogliere la riserva entro venerdì. Se così fosse, nel weekend il nuovo esecutivo potrebbe giurare al Quirinale e nei primi giorni della prossima settimana potrebbe presentarsi alle Camere per chiedere la fiducia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vediamo come sempre di analizzare questa situazione. Il punto di Stefano Folli. Allora Stefano, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te Simone. Posto che sono oltre 50 finora i nomi che sono stati fatti dai quotidiani e bisogna dire la verità, anche da noi sui possibili ministri, naturalmente tutti non ci potranno entrare, non è questo forse lo snodo centrale, no, del percorso di governo che aspetta Matteo Renzi? Beh, insomma, certamente il nome del ministro dell'economia è cruciale e ancora siamo qui un po' in alto mare su questo punto. E oggi l'incontro con Berlusconi ha detto una cosa, che Berlusconi, pur essendo all'opposizione di questo governo, tirerà Renzi per la giacca per ottenere nel più breve tempo possibile, si dice, le riforme, io direi soprattutto la riforma elettorale. E su questo Renzi ha voglia di dargli ascolto, ha voglia di avere anche lui una riforma elettorale che, come dice Berlusconi, comporti il minor numero possibile di modifiche rispetto all'impianto che era stato definito circa 20 giorni fa. Ecco, però su questo punto si incrocia la necessità per Renzi di essere anche il capo di una maggioranza politica, quella che sosterrà il suo governo, e in questa maggioranza politica sappiamo che sono molto pochi quelli che hanno voglia di avere quel tipo di riforma elettorale che darebbe a Renzi la possibilità di sciogliere le Camere e che sarebbe molto punitiva per i partiti più piccoli, i partiti medi, centristi, eccetera. Quindi su questo c'è una contraddizione, c'è una grossa contraddizione che dovrà essere sciolta nel prosieguo. Senti Stefano, nell'ascoltare Berlusconi oggi sembrava più morbido lui che ha annunciato che starà all'opposizione rispetto ad Alfano che invece starà al governo in maggioranza. Sì, ma non c'è dubbio, c'è un'ambiguità, c'è un elemento di ambiguità fra due maggioranze, una quella che deve sostenere il governo e di cui è parte cruciale Alfano, il quale naturalmente sta chiedendo delle cose prima di ottenerle e cercherà di mantenere un po', il viso feroce, ma neanche poi tanto. Dall'altra parte Berlusconi, che sta all'opposizione, ma in realtà vuole essere il partner di Renzi su alcune questioni di fondo, quella della riforma elettorale è una, ma non è soltanto quella, ci sarà dell'altro. Ecco, qui è un'ambiguità che Renzi dovrà riuscire a sciogliere nei prossimi giorni, ma anche dopo l'insediamento del governo, perché è un'insidia di non poco conto. Questo il quadro politico generale che non si esaurisce qua. Io intanto ringrazio Stefano Folli e non si esaurisce qua nemmeno per la nostra trasmissione, perché più avanti ospiteremo il vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e poi naturalmente vi faremo ascoltare l'incontro tra Beppe Grillo e Matteo Renzi. Veniamo all'estero, un estero molto vicino per tutta una serie di motivi, che è l'Ucraina, dove le vittime al momento sono 26 dei nuovi scontri. Ci aggiorna Cristina Carpinelli. Cristina, eccoci. Sì Simone, come dicevi sono 26 le persone che hanno perso la vita negli scontri tra polizia e manifestanti che chiedono l'adesione all'Unione Europea, scontri che sono scoppiati ieri e che continuano ancora oggi a Kiev, 241 le persone ferite e ricoverate in ospedale, tra questi ci sono 79 poliziotti e 5 giornalisti, una città in guerra con linee metropolitane e scuole chiuse, i feriti vengono soccorsi con ogni mezzo, portati via in taxi e in auto. A Leopoli, roccaforte dell'opposizione più nazionalista, invece circa 5.000 insorti si sono impossessati di un deposito di armi per evitare l'assalto, quindi che si verificasse una cosa simile anche a Kiev, al deposito d'armi. Il ministro della difesa ha ordinato l'invio di 500 paracadutisti. La comunità internazionale preme per determinare una svolta. Catherine Ashton ha convocato per domani un consiglio dei ministri degli esteri europeo straordinario. È di questi istanti anche l'invito sempre della Ashton al ministro degli esteri polacco Sikorski di recarsi a Kiev. La Francia intanto sta considerando e sta proponendo agli altri paesi europei delle sanzioni individuali. Sul fronte interno il leader dell'opposizione Klitschko ha annunciato per oggi un nuovo incontro dell'opposizione con il premier Yanukovych. Nel frattempo si sta incrinando il rapporto tra forze di polizia e governo, anche questa è una notizia di poco fa ed è la nota diffusa dal comandante delle truppe di polizia di Kiev, che ha annunciato che non darà ai suoi uomini ordini criminali e che l'unità da lui comandata non userà la forza contro i manifestanti. L'ultima notizia, la Russia ha denunciato oggi un tentativo di colpo di Stato in Ucraina e ha dichiarato di esigere dai leader dell'opposizione del paese lo stop alle violenze. Situazione molto tesa, dunque torneremo a parlarne più avanti nel corso di Effetto Giorno con il vice ministro agli esteri esteri Marta Dassù. Intanto però sentiamo la voce che ha raccolto la nostra Anna Marino. È quella di un manifestante a Kiev che si trova praticamente tra le barricate, appunto, di chi sta protestando. Si chiama Bogdan Kirchenko. Sentiamo. C'è un pericolo reale di guerra civile in Ucraina o ci sono altri gruppi criminali che vogliono questa guerra civile? No, non c'è pericolo di guerra civile, perché la guerra tra il popolo ucraino e il presidente Yanukovych e i suoi schiavi, le persone che lavorano con lui, che rubano insieme a lui. Corruzioni, schemi, rodinami, schemi e так далее. Quali sono le ragioni del conflitto? La ragione del conflitto è una: Yanukovych occupa tutto il potere in Ucraina a tutti i livelli e in tutti i settori. Tutto questo è stato raggiunto in modo illegale. Non è tutto dovuto alla mancata firma per l'adesione all'Unione Europea, ma è tutto dovuto agli atti criminali che Yanukovych commette tutti i giorni. Il presidente non vuole ascoltare le ragioni, anche europeiste, dei manifestanti ucraini. Vi sentite aiutati dall'Unione Europea? Per la verità il popolo ucraino non sente un forte aiuto dall'Unione Europea. Noi ascoltiamo solo parole ogni giorno di sostegno e non vediamo nessun fatto, nessuna azione. Avete paura? Vi sentite in pericolo? La giusta risposta è naturale, è ovvio che abbiamo paura, ma noi siamo qui in questa piazza, in questo presidio di protesta, e siamo pronti a stare qui tutto il tempo che sarà necessario. E noi restiamo all'estero perché questa mattina c'è stato un nuovo attentato in Libano. Giusto il tempo di formare il nuovo governo di Tamam Salam, e a Beirut sono esplose le due solite bombe nel tentativo di provocare il caos. L'attentato al centro culturale iraniano nella periferia sud di Beirut è stato rivendicato dalla stessa organizzazione terroristica qaedista che a novembre aveva compiuto quello alla vicina ambasciata di Teheran. Stessi obiettivi, stesso copione: cercare di destabilizzare definitivamente il Libano, spingendolo dentro il conflitto siriano. Ma ora il paese ha un governo composto da tutte le forze politiche, sciiti, sunniti, cristiani, drusi, pro e antisiriani, amici e nemici di sauditi e iraniani, equamente divisi nei dicasteri. È un governo incapace di compiere le riforme strutturali di cui avrebbe bisogno il Libano, ma l'urgenza ora è evitare il contagio siriano e la provocazione dei sunniti radicali, dai quali ha preso le distanze anche il leader libanese dei sunniti, Saad Hariri. E questo pletorico governo, creato per l'emergenza, sarà l'antidoto necessario per assorbire l'ennesima provocazione. Abbiamo ricevuto il messaggio, dice infatti il nuovo premier Salam, risponderemo con la solidarietà e il nostro impegno per la pace. Così dal Libano. Noi torniamo all'Italia per una storia di corruzione, almeno un'inchiesta sulla corruzione, e ci colleghiamo con Raffaella Calandra perché si parla di appalti a Palazzo Chigi. Raffaella, di cosa si tratta? Sì Simone, buongiorno ancora una volta. Si tratta di un personaggio noto che faceva da intermediario tra interessi privati e appalti pubblici. Ancora una volta era al centro di un triangolo dove il mondo delle forze dell'ordine si incrocia con quello delle istituzioni. Si tratta di Luigi Bisignani, che torna ai domiciliari con l'accusa di frode fiscale. E ai domiciliari stavolta va anche uno degli ex vertici dell'Arma dei Carabinieri, il generale Antonio Ragusa. Nel 2010 era stato il capo delle risorse strumentali di Palazzo Chigi, ed è intorno agli appalti per la sicurezza proprio della sede della Presidenza del Consiglio che ruotano le accuse contestate al faccendiere che ha già patteggiato nell'inchiesta sulla P4 a Napoli. In sostanza l'accusa è quella di aver favorito, attraverso pressioni e i suoi giri politici e istituzionali, la società che gestisce il sistema di vigilanza del palazzo, cioè la Guardia Mia, che è uno degli obiettivi più sensibili, una delle sedi più protette d'Italia. E qui entrava in causa appunto il generale Ragusa, a cui viene contestata la corruzione e la turbativa d'asta per aver favorito appunto la società di un imprenditore raggiunto a sua volta dalla misura interdittiva. E questo è un filone dell'inchiesta napoletana sulla P4, che era stato trasferito a Napoli e affidato al PM Paolo Ielo, ex magistrato del pool Mani Pulite di Milano, che aveva già all'epoca nel 93 indagato Bisignani nell'inchiesta Enimont. E per ora è tutto. E grazie alla nostra Raffaella Calandra. Parliamo di sport adesso, innanzitutto con le notizie da Sochi. L'americano Lichty ha vinto la medaglia d'oro nello slalom gigante ai giochi olimpici, secondo posto per il francese Missilier, terzo l'altro francese Pinturo, una vera delusione per Davide Simoncelli che nella prima manche aveva fatto il terzo miglior tempo ed ha chiuso diciottesimo, miglior azzurro Luca De Liprandini. Ma vogliamo parlare anche di calcio e parliamo di Champions. Dario Ricci, eccoci Simone. Beh, polvere di stelle da Sochi, e stelle vere invece quelle che staranno in campo questa sera anche a San Siro, perché c'è in programma questo Milan Atletico Madrid, esordio europeo sul massimo palcoscenico per Clarence Seedorf come allenatore, lui che di Champions in campo ne ha vinte ben 4. Sfida davvero difficile sotto una pioggia battente, piove da stamattina a San Siro. Perché? Perché l'Atletico Madrid del Ciolo Simeone, ex interista e laziale che tante volte Seedorf l'ha sfidato in campo, è primo in classifica in Spagna, sta facendo sudare Barcellona e Real Madrid, quindi avversario davvero da prendere con le molle. Occhio al bomber Diego Costa, serve il Milan delle grandi occasioni che anche sotto Seedorf abbiamo visto raramente, serve anche quel Super Mario Balotelli che, come abbiamo visto col Bologna, è in grado di far esplodere la partita con una prodezza magari estemporanea, ma insomma la classe c'è, ecco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tra poco in diretta streaming il confronto tra Beppe Grillo e Matteo Renzi, ve lo faremo ascoltare. Il presidente incaricato conta di formare il governo entro venerdì, Berlusconi dice stiamo all'opposizione ma disposti a collaborare. Le vittime degli scontri in Ucraina tra manifestanti e polizia sono almeno 26, la Russia parla di colpo di Stato, l'Europa riunisce domani i ministri degli esteri. Inchiesta su alcuni appalti della Presidenza del Consiglio, arrestati ai domiciliari Luigi Bisignani e il generale dei Carabinieri Ragusa. Frode fiscale, corruzione e turbativa d'asta, le accuse. Sanremo, la prima serata, fa ascolti più bassi rispetto all'anno scorso, ma i numeri sono comunque enormi. Share a circa il 45%. Marta Dassù, vice ministro degli esteri, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, naturalmente vogliamo parlare con lei della situazione in Ucraina e io la prima domanda che le voglio fare è se l'Europa si è mossa troppo poco, troppo male e come al solito un po' disarticolata, per così dire. Ma intanto risponderei che si sta muovendo oggi, come ricordavate nel vostro sommario di apertura. Domani è prevista una riunione straordinaria e urgente dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Bruxelles, a cui parteciperà Emma Bonino. In discussione sono delle misure restrittive eccezionali, in sostanza delle sanzioni mirate verso il governo di Ucraina. Quindi in questo momento l'Europa si sta muovendo, rispondo così, diplomaticamente. Quando si parla di sanzioni mirate, che cosa si intende? Ma si intendono delle misure come per esempio il bando dei visti su persone da identificare, la previsione che i capi missione a Kiev, per noi l'ambasciatore Fabrizio Romano, siano in grado di identificare persone ritenute particolarmente responsabili delle violenze di questi giorni, quindi in particolare il bando dei visti, l'embargo su eventuali vendite di armi, che quindi in qualche modo su materiali che possono essere usati a fini repressivi, e queste sono le due misure in genere che si discusse in questi casi, oltre eventualmente al freeze degli assets, dei beni esteri, che nel caso del regime ucraino avrebbero un peso particolare. Vice Ministro, mi interessa capire una sua valutazione su quello che si è detto su queste proteste e su quello che c'è dentro queste proteste, perché a volte anche noi giornalisticamente tendiamo a semplificare un po' quella piazza, no? A definirla una piazza pro-europea. In realtà dentro c'è molto altro, a partire da movimenti nazionalisti e organizzazioni paramilitari. Sì, è così, lei ha ragione. Io credo che sia importante tenere presente che naturalmente esiste il governo Yanukovych, esiste un'opposizione che si potrebbe definire un'opposizione parlamentare, Klitschko, Yatsunyek, Svoboda, cioè i tre partiti che in qualche modo hanno dialogato con Yanukovych in queste settimane. E anche su Svoboda si potrebbe discutere, sì, da quel lato comunque. Insomma. Comunque sono partiti rappresentati in Parlamento che stavano discutendo con Yanukovych un percorso, diciamo così, politico, e cioè la revisione della Costituzione per arrivare a una Costituzione molto più fondata sui poteri del Premier più che sui poteri del Presidente, la Costituzione del 2004 in sostanza, l'amnistia che in effetti c'è stata, il ritiro delle leggi liberticide per così dire del 16 gennaio e così via, e poi la nomina di un nuovo governo fino alle future elezioni. Questo era il percorso politico. Poi naturalmente c'è una piazza che è nata come molte come molte volte in questi casi, come una piazza di studenti che protestavano contro la non firma degli accordi di Vilnius, ma si è poi dilatata a ogni sorta di attivismo di vario genere, fra cui si può immaginare che l'Europa sanzioni, come dire, anche esponenti della protesta, come dire, che ritenga responsabili di questa protesta, come ma l'Europa in queste settimane si è espressa contro le violenze ingiustificate da qualunque parte provenissero. Questa è stata anche la posizione italiana. E quindi è possibile che questo avvenga? Ma vedremo, domani c'è un menù di opzioni che io devo dire non ho ancora visto, è stato discusso oggi al COPS, ma insomma verrà discusso domani direttamente dal ministro a Bruxelles, è un documento che non ho ancora avuto modo di vedere. Grazie al vice ministro agli esteri Marta Dassù per essere stata con noi, e saluto Andrea Malan del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, tanto ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, soprattutto visto che si parlava di Europa, soprattutto per il fatto che Bruxelles, come dire, non è intervenuta come avremmo sperato. Oggi arriva a conclusione la vicenda Peugeot-Citroën, aumento di capitale da 3 miliardi, entrano i cinesi, e questo è un fatto storico, ed entra anche lo Stato francese, Andrea. Sì, esatto, i cinesi e lo Stato francese investiranno ciascuno 800 milioni di euro. Alla fine dell'operazione in sostanza avremo tre azionisti, cioè i due appena citati e la famiglia Peugeot che, fatto storico come hai detto, perde il controllo del gruppo che aveva fondato oltre due secoli fa. Hai citato Bruxelles, alla domanda che è stata fatta oggi in conferenza stampa se Bruxelles avrà qualcosa da dire, la risposta è stata speriamo di no, contiamo sul fatto che non l'abbia, perché, ha detto il presidente di Peugeot, lo Stato francese investe a condizioni di mercato, investe contemporaneamente a un altro azionista e anche agli altri investitori e anche agli altri azionisti che potranno anche loro sottoscrivere nuove azioni in sostanza, quindi è un'operazione di mercato. Noi sappiamo peraltro che l'azionista cinese Dongfeng è anch'essa un'azienda statale, quindi diciamo la cosa è molto curiosa, praticamente Peugeot diventerà nei prossimi mesi un'azienda pubblica, non è un caso che il contratto definitivo verrà firmato a fine marzo in occasione della visita a Parigi del presidente cinese Xi Jinping. Questo il quadro appunto dal punto di vista di Peugeot Citroën. Vedremo appunto che cosa avrà da dire Bruxelles. Io intanto saluto Andrea Malan, collega del Sole 24 Ore, inviato a Parigi appunto per raccontare di questa vicenda. Giuseppe Brescia, deputato, vice capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Siamo qua in attesa e trasmetteremo anche noi naturalmente, così come c'è lo streaming da una parte e dall'altra, su UDEM, che è la TV del Partito Democratico, e sulla Cosa, quella che è la vostra web TV, quindi trasmetteremo anche noi e faremo sentire questo incontro tra Beppe Grillo e Matteo Renzi e naturalmente i capigruppo. Cosa si aspetta, Brescia? Guardi, io mi aspetto che un ritorno fastidioso. E adesso vediamo di farglielo escludere. Prego. Grazie mille. Dicevo, mi aspetto soprattutto che ci sia un confronto schietto. Sappiamo benissimo che Beppe e i nostri capigruppo non utilizzeranno toni leggeri nei confronti di una persona che si è fatta mettere lì al comando del paese dalle urne, che quindi ha già tradito la volontà popolare, la volontà dei cittadini. Per noi questo è già qualcosa di molto grave, ma purtroppo fatto è avvenuto, quindi gli chiederemo subito, guardi, di passare ai fatti, perché ora avrà la possibilità di dimostrare al popolo italiano quanto vale e vedremo un po'. Già oggi in aula in realtà c'è un provvedimento di borse elettorali, che era una delle tre promesse che aveva fatto per farsi eleggere la segretaria del partito, e a quanto pare rischia di cadere, quindi rischia di rimanere tutto com'è, e questo significa che i partiti continueranno a prendere i soldi illecitamente, perché ricordiamo che c'è stata anche la pronuncia della Corte dei Conti su questo tema, sì, dopo il referendum del 93, dove hanno espresso Brescia molto seccamente, sulla sostanza delle proposte si può discutere oppure no? Assolutamente sì, noi dobbiamo discutere sempre, dobbiamo badare ai fatti. Noi siamo pronti, come le dicevo, a vedere in aula quello che sarà proposto dal Partito Democratico guidato da Renzi, e vedremo se corrisponderà a ciò che si è detto in tutti questi giorni di una specie di campagna elettorale che si è fatta, perché in realtà non eravamo in campagna elettorale, ma Renzi l'ha sempre fatta e ha promesso, tra le altre cose, come le dicevo, di rinunciare ai rimborsi elettorali, a eliminare gli F-35 per esempio, sì, un'altra battaglia su cui noi siamo stati assolutamente chiari e netti. Abbiamo presentato una mozione per l'eliminazione totale, vedremo come si comporterà. E poi anche sul tema delle province, vedremo come si comporterà. Per Brescia, chiarissimo. Brescia, io ho un'ultima domanda che le devo dire la verità, mi frulla in testa da ieri sera e mi interesserebbe fare. Io adesso spero che i nostri ascoltatori, come dire, che sono aderenti, amanti del vostro movimento, non mi mangino vivo. Però mi chiedo questo: ma se a Sanremo ci fosse andato un Matteo Renzi e un Silvio Berlusconi, avesse fatto un comizio all'ingresso praticamente del teatro Ariston, voi come avreste reagito? Io dico che tutti hanno la possibilità di esprimersi, questo è garantito dall'articolo 1 della Costituzione, però a prescindere da questo, loro, gli altri, utilizzano tutte le tecniche e hanno a loro disposizione giornali e televisioni. Ogni giorno gli danno uno spazio spropositato. Noi invece dobbiamo invertarcene un po' di cose per poter portare la voce di milioni di cittadini che ci hanno dato la loro fiducia, e quindi ieri è stato comunque un evento così anche abbastanza carino, dove si è raccolta tutta la gente che era fuori dall'Ariston, e come abbiamo potuto vedere dai video sono pervenuti. Brescia, però mi dica la verità, ve lo sareste mangiato se un Renzi o un Berlusconi avesse fatto una cosa di questo genere? Ma sa, nella battaglia politica, nel dibattito politico, ovviamente, poi è un gioco delle parti, ma a questo punto qui vale tutto, ma la cosa che conta è salvare i cittadini, fare il bene dei cittadini, queste sono cose assolutamente secondarie. Grazie a Giuseppe Brescia, deputato, vice capogruppo alla Camera del Movimento Grazie 5 Stelle, buona giornata. E noi andiamo proprio a Sanremo, Marta Cagnola, buongiorno. Eccoci qui, ci siamo oggi, c'eravamo anche ieri sera, sì, in piazza con Beppe Grillo. Allora, bene gli ascolti, anche se non bene come l'anno scorso, però comunque metà degli italiani era davanti al video, e tra l'altro ho letto che sono stati denunciati i lavoratori precari che ieri hanno di fatto fatto ritardare l'inizio di Sanremo, no? Sì, qualcuno pensava che potesse essere combinata la cosa, invece si è saputo cosa è successo. 4 persone, 3 uomini e una donna, che in galleria ha simulato un malore distraendo le forze di sicurezza, sono stati denunciati per violenza privata dalla questura per aver costretto a compiere un'azione attraverso minacce. 4 persone dipendenti del consorzio Bacino Unico di Napoli per la raccolta dei rifiuti, che erano già note per altre azioni analoghe, interruzione pubblico servizio a Napoli, avevano regolarmente comprato i biglietti, 2 regolarmente al botteghino, 2 con bagarinaggio, e sono riusciti insomma a fare tutto questo. E infatti oggi qualche domanda sulla sicurezza insomma ce la siamo posta. Allora, Marta, questo il quadro, naturalmente stasera si riprende, si chiude, quando è sabato, no? si chiude sabato, questa sera ci sono gli altri 7 big, i 4 primi giovani, 2 dei giovani passeranno, invece per i big c'è ancora la scelta tra una canzone e l'altra, e poi come ospiti Baglioni, Rufus Wainwright, e anche qui magari ci sono ancora polemiche, Franca certo. Valeri e Claudio Santamaria. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Tra pochi minuti l'incontro tra Beppe Grillo e Matteo Renzi per le consultazioni. Andrà in diretta streaming e ve lo faremo ascoltare. Berlusconi dice siamo all'opposizione ma disposti a collaborare. Le vittime degli scontri in Ucraina tra manifestanti e polizia sono almeno 26. La Russia parla di colpo di Stato. L'Europa riunisce domani i ministri degli esteri. Si valutano sanzioni, ci ha detto poco fa il vice ministro Marta Dassù. Un mese fa l'alluvione nel Modenese, a Bonporto e Bastiglia ci sono ancora famiglie ospitate negli alberghi, negozi chiusi e ancora non si parla di risarcimenti ai privati. Tra poco vi faremo ascoltare una voce. Prima della borsa una risposta dovuta agli ascoltatori legati al Movimento 5 Stelle che ci scrivono ti pareva che non avreste attaccato Grillo, fate schifo. Non abbiamo attaccato Grillo, ci siamo chiesti in termini di paragone molto semplicemente che cosa sarebbe successo se quello che è stato fatto ieri a Sanremo da Grillo fosse stato fatto da un qualsiasi altro leader politico, e l'abbiamo chiesto a un deputato del Movimento 5 Stelle e lo abbiamo fatto rispondere col massimo della tranquillità, ci sembra, con equilibrio. La borsa. Borse in diretta. Borse negative oggi, meno 0,71% sul FTSE MIB, meno 0,63% sul FTSE O'Share, negativo anche il resto d'Europa, anche se non così male, a Londra meno 0,45%, Francoforte mezzo punto percentuale di calo, Parigi meno 0,23%. Chiara Di Cristoforo, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Come mai? Allora, c'è da dire che il clima è generalmente negativo, c'è un po' di preoccupazione per quello che sta succedendo in Ucraina. Infatti ci sono tensioni sulle monete dell'est, il rublo è ai minimi storici sull'euro e ai minimi dal 2009 sul dollaro, quindi questa situazione di incertezza ha fatto scattare un po' di vendite, l'apertura era stata incerta, ora prevale il segno negativo, si aspettano anche le minute della Federal Reserve nel pomeriggio che potrebbero dare degli spunti, e per quanto riguarda Milano comunque l'incertezza politica certo non premia. Questo per quanto riguarda Milano, anche se in realtà l'andamento dei titoli di Stato è piuttosto buono anche oggi, insomma positivo per noi quantomeno. Allora Chiara, titoli in evidenza molto brevemente? Allora innanzitutto Tenaris, forte scivolone per il titolo, perde, è il peggiore del listino principale, perde quasi il 6% dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di applicare i dazi a una serie di paesi, ma non alla Corea che è il principale importatore di tubi, e questo potrebbe influire negativamente sul commercio di Tenaris. Sul fronte positivo invece segnaliamo A2A che fa un più 2,43%, appena diffuso proprio da pochi minuti i dati preliminari sull'anno che vedono un aumento della redditività e un calo del debito. Sale anche Ansaldo STS più 1,19%, si torna a parlare di una possibile cessione da parte di Finmeccanica che riguarderebbe sia STS che Ansaldo Breda. Grazie a Chiara Di Cristoforo e ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo adesso a parlare di Modena, del modenese. Aspirata l'acqua, pulito il fango, un mese dopo l'alluvione resta l'emergenza nella bassa. Il 19 gennaio scorso il fiume Secchia, lo ricorderete, ha rotto gli argini, ha allagato i comuni della provincia. A Bonporto e Bastiglia sono ancora molte le famiglie ospitate in albergo, il governo ha proclamato lo stato d'emergenza e anche questo lo sapete, ma ancora non si parla di risarcimenti per i privati. Molti negozi chiusi, si pensa di unificare le istanze di terremoto ed alluvione. La paura in questa terra è che ora anche la crisi politica faccia passare in secondo piano il disagio. Vogliamo risposte e abbiamo bisogno di aiuti. L'intervista di Raffaella Calandra è a Maria Cristiana Cavalli. Chi è? È un abitante di Bonporto che ha perso tutto e vive ancora in albergo. Casa mia non c'è più, è inagibile. Io vivo in albergo dal 20 di gennaio. A mie spese, mangio fuori di casa, ho comperato vestiti perché non ne avevo più, ho comperato scarpe, l'unica cosa che avevo era la borsa. 1,80 m d'acqua, 6 giorni e 6 notti, abbiamo buttato via tutto, tutto. cioè non c'era nulla che si potesse tenere, quindi io sono fuori di casa senza vestiti. Quindi ha perso tutte le cose che aveva in casa? Tutto, ha compresi i documenti, compreso non ultimo la ricevuta della TARES con l'F24 pagata in banca. Sono andata anche in banca, l'hanno persa anche loro, perché anche loro sono andati sott'acqua. Chiaramente da parte vostra c'è molta rabbia. Più che rabbia, io vorrei risposte, perché le ripeto, io vivo in albergo a mie spese. Le schede danni che andrò a consegnare proprio domani, è ridicolo, perché ho fatto un CD con foto e video di quello che era casa mia, di quello che era la mia vita. E che cosa scrivo nella descrizione? Tutto, tra parentesi, i vari comitati che si sono creati. E sono andato una sera a una di queste riunioni, ho preso il microfono e ho detto la mia, siete ridicoli. Primo, siete politicizzati in una maniera schifosa. Secondo, non c'è un comitato, ci sono gli alluvionati, punto, agricoltori, imprenditori, privati, il danno deve esserci spiegato, anche perché venerdì scorso eravamo di nuovo in allerta. E veniamo adesso ad un'altra vicenda. Qual è? È quella delle notizie diffuse dalla Procura di Savona ieri a proposito della centrale a carbone di Vado Ligure della Tirreno Power. Secondo la consulenza commissionata alla Procura, in 10 anni avrebbe causato oltre 400 morti. Naturalmente stiamo parlando a questo punto di inquinamento ambientale. C'è una replica dell'azienda che dice le consulenze sono consulenze di parte che non sono mai state sottoposte a un contraddittorio, naturalmente la procura, e quindi è l'accusa che indaga su tutto questo. Saluto Mario Molinari, che è un giornalista Ciao, freelance. Buongiorno, lavora per il Fatto Quotidiano, il sito Nuova Informazione Indipendente. Mario, tu hai lavorato molto su questa vicenda, anzi si può dire insomma che l'hai tirata fuori tu sostanzialmente. Sì, diciamo, senza farsi complimenti, però iniziamo a parlarne online, diciamo 4-5 anni fa. E le conclusioni della procura, a tuo giudizio naturalmente, sono attendibili con le conclusioni della consulenza della procura, per quel poco che ne sappiamo, perché in realtà ha parlato il procuratore, ma da quel che si è compreso gli atti sono ancora secretati? Guarda, il procuratore è una persona a dir poco affidabile, nel senso che è uno di quelli che non parla, purtroppo per noi giornalisti. Quindi quando parla lo fa estremamente a ragion veduta. Il collegio peritale è formato da professionisti di primissimo ordine e non legati a nessuna realtà industriale. Quindi non si vede il motivo per il quale l'accusa debba esagerare in qualche modo i termini per poi venire smentita da un eventuale contraddittorio. Però appunto la posizione dell'azienda è diversa, insomma, bisogna ricordarlo. Certo, la posizione dell'azienda è quella dell'azienda che cerca di difendere fino all'ultimo dei gruppi a carbone che risalgono al 1971. Ora certo, poi sì, sono stati modificati, sono stati filtrati un po', però non dimentichiamoci che in sede di AIA, e anche questo è un ramo dell'inchiesta, le autorità locali patteggiarono un'emissione, non ricordo se anidride solforosa o nitrati, diciamo doppia rispetto al consentito, perché questi gruppi erano talmente vecchi da non essere in grado di adeguarsi alle normative attuali, e questo è un dato di realtà. Io ti ringrazio Mario Molinari, giornalista per il Fatto Quotidiano e il sito Nuova Informazione Indipendente. Voglio anche segnalarvi che nella giornata di oggi abbiamo cercato su questa vicenda varie persone, con la collaborazione di Laura Faggin naturalmente come sempre, tra cui l'ARPA regionale, il comune di Vado Ligure, un epidemiologo di Vado che lavora con il comune di Vado Ligure, che si è occupato della vicenda, e altre 4-5 persone, e nessuno al momento ha voluto parlare. Vedremo di tornare su questa vicenda nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Grazie a Mario Molinari e buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci, andiamo ad ascoltare l'incontro tra Grillo e Renzi per le consultazioni. Che non mi chiedi nulla, allora perché siamo venuti? Siete lì? Allora, cosa c'è? Per le microspie, togliete le microspie. Vanno in Larsen. Scusate, questo stiamo tornando indietro. Cos'è? Sì, però gentilmente se fate sapere che... Ti racconto che cosa vogliamo fare. Abbassate per piacere, grazie. Grazie mille, molto gentile. Di Maio, fantastico. Primo punto. Vedo tosto Di Maio. Di Maio, fantastico. Eccoci, allora, vediamo di sentire... Sai, abbiamo uno che si chiama Fico, alla RAI, che quest'anno aveva un rimborso spese di 30.000 euro per la vigilanza. Sai quanto ha speso? 183 euro. E secondo me ha fatto una crestina di 2-3 euro. Bene. Ma vero, insomma, ti raccontiamo che cosa vogliamo fare. Dimmi. Nelle prossime... diciamo nei prossimi 4 mesi. Noi abbiamo il semestre europeo a luglio e avendo il semestre europeo a luglio l'obiettivo è quello di arrivare a questo appuntamento per ragionare di un'Europa diversa. Non credo che la pensiamo allo stesso modo, però vogliamo anche noi cambiare l'idea di Europa e provare a farlo avendo sistemato le cose in casa, avendo fatto i compiti a casa. Che significa? Uno, portiamo in discussione al Senato, sì, al Senato giusto, il disegno di legge Delrio sulle province su cui alla Camera voi vi siete espressi, avete fatto ostruzionismo. No, forse non avete fatto ostruzionismo. Avete votato contro, chiedo scusa. No, perfetto. Posso interrompere un sacco, perché i piani, i programmi... Aspetta, fammelo dire prima, poi mi interrompi. Perché i programmi, non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono in ballo adesso. Si gioca un po' per uno, però bisogna parlare io, poi parlate. Facciamo un po' per uno per correttezza. No. No, non è possibile. Mi fai finire di parlare... Io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera educata, gioiosa, emotiva, appassionante, ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa poi la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane ma nello stesso tempo vecchio. Io ti ho preso molto in giro, se ti sei offeso mi dispiace. Ci siamo fatti delle battute mai, insieme. No, però tu sei mai offeso in vita. Noi siamo all'opposto vostro. E io ho sorriso. All'opposto vostro. Noi siamo i conservatori qua. Noi vogliamo l'acqua pubblica, tu la vuoi privatizzare, vuoi vendere l'Eni, vuoi svendere la nostra sovranità, noi la vogliamo mantenere. Tu parli di Europa, ma l'Europa va cambiata perché si cambia in Europa per cambiare l'Italia. Ci arriviamo subito su tutti i punti, ti chiedo soltanto io un passaggio. Scusa. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita. Ma vorrei che prima tu ascoltassi. Se sei in difficoltà sulla prevendita, sì, ti diamo una mi mano. Dai una mano, dai. Questo non è Sanremo. Ma ti mando degli omaggio. No, ma lascia stare. Il fatto di dire i tuoi programmi, tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi perfetto. Qualsiasi cosa dici non è credibile da parte mia e da parte nostra. Sono davanti tra sindaci, dai. Perdono, no, se vuol dire, io parlo con lui, io parlo con lui. Andiamo con ordine. Tu pensa alla differenziata Reggio Emilia. Anche a Firenze. Quanto è la differenziata Reggio Emilia? Tu? 60. Sì, perfetto. Bravo. Sono una bella cosa. Bene, allora fate i sindaci. Siete stati eletti per fare i sindaci, non per fare queste cose. Se io ti do il voto per fare il sindaco, fai il sindaco. Ecco, allora finisce anche lui. Però io adesso ti sento, per educazione ti sento. Perché il gesto che hai fatto è stato un gesto che io rispetto. Non voglio ti segnalo soltanto che io per i tuoi spettacoli non ho mai chiesto omaggio perché sono sempre venuto. No, siccome mi sono sempre venuto. Tu gli spettacoli in televisione, non li faccio. Benissimo. Io. Sai che non giro canale ogni volta che giro ci sei. Mi dispiace, e fai la macchietta. Una volta dici mai fare le scarpe a Letta e poi è successo quello che è successo. Mai andare al governo senza le elezioni. Poi dici entro il 15 la riforma elettorale. Non sei più credibile perché rappresenti della gente che noi siamo i nemici fisici di questa gente. Visto ieri che è successo? Due ragazze si sono uccisi per mancanza di posto di lavoro. No, guarda, questo problema del dolore, lascia stare, io ci sono in mezzo. Tu hai una cosa meravigliosa, tu fai un copia e incolla di cose meravigliose, hai delle idee straordinarie, prendi il camper, chi te l'avrà detta questa idea bellissima, poi giri in bicicletta, giri con la macchinina, ti attorni, vai in mezzo alla gente e dici non ho bisogno della scorta, perché la mia scorta sono i cittadini. Ti sei piaciuto? Meraviglioso, hai delle idee bellissime. Non ti faccio parlare, io sono venuto a manifestarti la nostra totale indignazione a quello che tu rappresenti. Perfetto. il sistema che rappresenti. Benissimo. A noi non ci interessa, perché noi faremo degli errori, ma siamo coerenti con quello che diciamo. Io, se ho detto non prendiamo soldi, abbiamo rinunciato a 42 milioni, tu hai detto risparmiamo un miliardo col Senato. Non è vero, perché il Senato costa 560 milioni, posso, non Beppe, un miliardo. Se, poi Beppe, abbiamo Beppe, metà stipendio. Ascolta, no, fammi poi parli tu, poi non parlo più. Allora, abbiamo rinunciato allo stipendio, metà stipendio, ho fatto un conto per la piccola media impresa. Non voglio neanche spiegarti il nostro programma, perché ce n'hai preso una metà e ti faccio tanti auguri se lo riesci a mettere in atto. Benissimo. Però il fatto che tu non sei più credibile, perché rappresenti De Benedetti, rappresenti gli industriali, rappresenti gente che ha disintegrato questo paese. Puoi essere giovane, ma non sei giovane. Parli, l'altra volta ti ho sentito dire, per esempio, no, basta andare al bar qui fare rinfreschi. L'hai detto, non facciamo rinfreschi, è una politica nuova. L'hai detto tu. Posso. Bellissimo, quando eri presidente della provincia hai speso 20 milioni in rinfreschi in 5 anni. Allora, teniamo ben presente. Io non voglio parlare con te. Voglio parlare con lui. Poi io e te ci mettiamo al bar e ci abbracciamo e parliamo di figli. Io con lui voglio dire che la nostra stima non ce l'ha. Noi siamo i conservatori. Vogliamo l'acqua pubblica, lui la vuole. Vogliamo la sanità pubblica. Vogliamo la. Beppe, è quella di prima. Basta, no. Vogliamo la sanità. Tu vuoi fare TAV, grandi lavori, cemento. Basta. Non hai neanche un'idea di come potrebbe essere il mondo. No. Tu non ce l'hai detto che mi fai parlare. Non ce l'hai un'idea. Sono d'accordo. Passare dalle rinnovabili alle rinnovabili. Per chi non l'avesse intuito, stiamo trasmettendo in diretta l'incontro tra Beppe Grillo e Matteo Renzi per le consultazioni. Via. Ora ti do un minuto, però. Non ho tempo per te. Non hai tempo. Non abbiamo tempo Beppe, per voi. Infatti, scusami, Beppe. In un minuto ti no, dico. Ma io non sono democratico. Un minuto, dammelo. Ma non sono democratico con voi. Sì, scusate, tu mi dai un minuto. Tu sei qui perché il tuo popolo. Se mi parli di spettacolo, ti interrompo. Allora. Tu sei come Gaspari, Se no sei un incrocio nemmeno tra sei un incrocio tra Gaspari e la Biancofiore in questo momento. Quindi, allora, bene, mi dai un minuto, prendo un minuto e poi ci salutiamo, se questo è l'obiettivo. Il minuto te lo dico così: sei qui perché il tuo popolo sul tuo blog. No, io non ho popolo. Il tuo popolo sul tuo blog ti ha detto che dovevi venire quando tu avevi detto il contrario. Io in 30 secondi ti dico: noi vogliamo superare le province. Il Senato non è vero. E il titolo quinto non è vero. Non è vero. Il disegno di legge tuo, volete sapere. Luigi, se vogliamo discutere nel merito, fai parlare le province. Guardate, Luigi, ne parliamo volentieri. No, Beppe, perdonami. Io capisco il tuo. Ragazzi, non possono dire bravi. Stiamo parlando di uno dei più grandi. Sta cercando di provare. No, non ti sto provocando. Ascolta, Beppe, sei un ragazzo. Sì, io ho 40 anni di mestiere, se volessi provocarti. Io sono uno di quelli che pagava il biglietto, venire ad ascoltarti. Ascoltami. Insieme a un pregiudicato, insieme a Verdini, che è uno della massoneria di Firenze, a fare la legge elettorale. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Caro Beppe, se questo era. E ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema. Benissimo. Io non sono più democratico con una persona come te. No, non lo sei mai stato, per cui non è un problema. Bypassi il Parlamento, fate decreti di legge. Io faccio decreti di legge. Non sono mai entrato in aula ancora, Beppe. Fermati, Luigi. Il tuo sistema. Perdonami, Lorenzo. Beppe mi ha dato un minuto. La gente come cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la tavola, allora devi votare Beppe, tutto insieme i pacchetti. Caro Beppe, 7 miliardi e mezzo alle banche, l'avete esci da questo partito. Blog, Beppe, no, esci no, da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila dolore, su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, caro. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Ti do la mano. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Come avete sentito, è stata molto molto molto rapida la cosa. Ha parlato quasi solo Beppe Grillo in questo incontro tra Matteo Renzi e Beppe Grillo. Ha detto: non abbiamo intenzione di ascoltarti, c'è stato il tempo per uno scambio di battute, e così è finita la consultazione tra Beppe Grillo e Matteo Renzi in vista della formazione del nuovo esecutivo. Chiediamo scusa al nostro Mario Platero per aver fatto saltare oggi America 24, ma sta parlando Grillo forse dopo le consultazioni. Chiedo alla regia se possiamo farlo ascoltare. Dire, pezzi di obiettivo, la smettete, non succede in nessuna parte del mondo una roba così. Non è che dovete portare avanti il pezzo, la frase per i vostri giornali. Siete parte di questo problema voi, dovete mettervelo in testa. Io ieri ero là a vedere delle sceneggiate sul dolore, come dice il signore, sul dolore. Sta parlando ai giornalisti, attenzione, prego. Di queste due persone che si volevano buttare giù tutto preparato, lo fanno ogni 10 anni il festival. Chi è che gioca sulla disperazione, sulla miseria? E allora perché non andate a vedere i vostri editori, la RAI? Perché se siamo al 70° posto della libertà di stampa è anche un po' colpa vostra. Un po' colpa vostra, un po' colpa mia, un po' colpa di tutti. Se non cambiamo l'informazione in questo paese, non cambiamo il benissimo paese. Allora non lo stiamo interrompendo perché sta parlando ai giornalisti, tanto quello che aveva da dire sui giornalisti l'avete già sentito e l'ha detto ampiamente, se l'è presa con noi. Chiudiamo così Effetto Giorno. Grazie Laura Faginni in assistenza in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. A tra un attimo col GR.